C'era una volta una strada, un buon vento mi portò laggiù. E se la memoria non mi inganna, all'angolo ti presentasti tu. Quelli erano giorni, sì, erano giorni, al mondo non puoi chiedere di più. Noi ballavamo anche senza musica, nel nostro cuore c'era molto più. La vivevamo in una bolla d'aria che volava sopra la città. La gente ci segnava con il dito dicendo guarda la felicità. Quelli erano giorni, sì, erano giorni, niente ci poteva più fermar. Quando il semaforo segnava rosso, noi passavamo allegri ancor di più. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Poi si sa col tempo anche le rose un mattino non fioriscono più. E così andarono le cose, anche il buon vento non soffiò mai più. Quelli erano giorni, oh sì, erano giorni, al mondo non puoi chiedere di più. E ripensandoci mi viene un nodo qui, e se io canto questo non vuol dire la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oggi son tornata in quella strada, un buon ricordo mi ha portata là. Stavi in mezzo a un gruppo di persone e raccontavi, cari amici miei, quelli erano giorni, sì, erano giorni, al mondo non puoi chiedere di più. Noi ballavamo anche senza musica, nel nostro